Letture di Radio 24. Il bonus è stato annunciato, ma non c'è ancora nulla di concreto. È quanto si sono sentite dire numerose mamme della regione Piemonte in cerca del cosiddetto bonus pannolini, che permetterebbe di ricevere pannolini gratis per tutti i bambini fino al sesto mese di vita. Era stato annunciato dal 1 gennaio del nuovo anno, ma di pannolini gratis ancora non se ne vedono. Vediamo di capire cosa è successo da questo articolo tratto dalla stampa. Il presidente della regione, Cota, lo aveva annunciato a settembre a Torino, ribadito ad Asti pochi giorni dopo. Dal 1 gennaio 2011, come misura di sostegno per le famiglie, pannolini gratis per tutti i bimbi fino al sesto mese di vita. Il provvedimento compare sul sito della regione e su diversi altri indirizzi internet dedicati a mamme e bambini. Iniziativa encomiabile, bilancio permettendo. Ma il 1 gennaio è passato, nelle farmacie non c'è ombra di pannolino gratis, nei supermercati idem e nei reparti di ostetricia degli ospedali piemontesi nessuno sa come ottenere il bonus promesso. Elencato fra le strategie per aumentare i servizi alla persona, il provvedimento non è partito, resta per ora sulla carta. Lo sanno bene le prime neomamme torinesi del 2011, che da giorni chiedono al numero verde della regione come ottenere l'agevolazione. Come Marta, madre valsusina di due gemelli appena venuti al mondo al Mauriziano. Dopo aver letto sui giornali dell'iniziativa, ieri ho domandato in reparto quale fosse la procedura per avere i famosi pannolini. Essendo io una delle tante donne rimaste senza lavoro, quel bonus, onestamente, sarebbe un aiuto importante. Nessuno ha saputo darle risposta. Così, prosegue la donna, ho telefonato al centralino della regione. Mi hanno passato l'ufficio competente, ma anche lì ho avuto una risposta evasiva. Lei è l'ennesima mamma che telefona, signora. Non sappiamo cosa dirle. Il bonus è stato annunciato, è vero, ma per ora non ci sono altre indicazioni concrete. Lanciata il 27 agosto a Rimini durante il meeting di Comunione e Liberazione, la proposta era stata immediatamente rilanciata da Cota durante il convegno. Quale politica per la famiglia? Le prospettive del welfare locale? Nella vicina Francia, ha detto Cota, sono molte le iniziative concrete a favore delle famiglie. In Piemonte interverremo per non far pagare i pannolini alle famiglie che hanno figli piccoli. Luciano Platter, presidente dei farmacisti torinesi, allarga le braccia. Le farmacie hanno dato da subito la loro disponibilità, ma anche noi stiamo aspettando dalla regione indicazioni sulla procedura da seguire. Da quanto ci risulta, il Piemonte dovrebbe dare a ogni mamma un buono mensile con un tetto massimo di spesa, cifra da spendere per i pannolini acquistati non solo in farmacia, ma anche in altri punti vendita, grande distribuzione compresa. Malgrado il ritardo, Cota conferma l'impegno della regione. A fine agosto abbiamo annunciato che per il 2011 il Servizio Sanitario Regionale avrebbe fornito i pannolini per i neonati e anche questa promessa verrà mantenuta. Abbiamo bloccato nel bilancio le risorse necessarie attraverso delle economie. I tempi? Stiamo studiando la soluzione migliore, più semplice, non burocratica. Posso dire in anteprima che abbiamo ragionato su un voucher che dovrà essere il più semplice possibile e anche avere una certa intercambiabilità con altri prodotti, tipo il latte in polvere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Pannolini gratis? Bonus fantasma per le neomamme di Marco Accossato, pubblicato dalla Stampa di martedì 4 gennaio. Diventare mamma a 13 anni grazie anche all'aiuto dei nonni. È la storia di una giovane famiglia della provincia di Bari formata da un padre di 16 anni e dalla sua fidanzata di 3 anni più giovane. Le famiglie dei neogenitori hanno sostenuto la gravidanza e anche il sindaco del comune si rende disponibile per ogni aiuto. Ascoltiamo la storia della giovane coppia da questo articolo di Angela Balenzano. L'amore è nato tra i banchi di una scuola media. Lei 13 anni, lui 16. Dalla loro breve relazione nei giorni scorsi in provincia di Bari è venuta alla luce una bimba di quasi 5 kg dai capelli neri e che gode di ottima salute. La baby mamma, una delle più giovani d'Italia, è felice così come lo è il suo papà. La figlia è nata nell'ospedale ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove la tredicenne è stata ricoverata dal 20 al 27 dicembre e il parto è avvenuto con taglio cesareo per evitare alla ragazzina qualsiasi sofferenza. La coppia è sostenuta dalle famiglie, entrambe cattoliche, che mai hanno preso in considerazione la possibilità di interrompere la gravidanza. «È stata una scelta», dice il papà del sedicenne e nonno della neonata. «Siamo tutti molto felici, lo sono anche i genitori, ma non vogliamo fare altra pubblicità a questa storia. Desideriamo che resti riservata e che i ragazzi vengano lasciati tranquilli». Pochi giorni dopo il parto, mamma e figlia sono state dimesse e sono tornate a casa in provincia di Taranto, dove hanno festeggiato in armonia il Capodanno. La neomamma, però, non ha potuto riconoscere la sua bambina, ma lo ha fatto il suo papà, evitando così l'affidamento della neonata. La coppia sarà seguita passo passo dai servizi sociali e su di loro saranno puntati anche gli occhi dei magistrati della Procura dei Minori. Ma ad assisterli più di tutto ci saranno i nonni, che passo dopo passo hanno accompagnato i figli durante la prima parte del percorso e hanno promesso anche sostegno economico. Se avessero bisogno di altro, il comune di Cassano Murge, piccolo centro di circa 13.000 abitanti nel cuore della Murgia Barese, è pronto a dare un contributo. Ad annunciarlo è stato il sindaco Maria Pia Di Medio. «Se i genitori dei due minorenni chiederanno il nostro intervento, noi valuteremo i bisogni della famiglia e decideremo come intervenire. È troppo presto per avere un figlio, perché 13 anni è l'età dell'adolescenza e della giovinezza, e non certo quella dell'assunzione di responsabilità». Così Anna Oliverio Ferraris, psicologa dell'età evolutiva, commenta il caso avvenuto in Puglia. «Una ragazzina di 13 anni è ancora una bambina e non certo una persona adulta, e non sempre sarà in grado di fornire a un neonato, aggiunge ancora, tutte le cure e le attenzioni che quel bambino certamente richiederà. All'inizio può anche sembrare facile, ma non è così, e con il tempo la perdita della giovinezza si potrebbe far sentire». Avete ascoltato la lettura dell'articolo La baby mamma di 13 anni di Angela Balenzano, pubblicato dal Corriere della Sera di martedì 4 gennaio. Letture di Radio 24. Credere per due mesi di essere diventati milionari, vendere tutto quello che si ha e poi scoprirsi senza soldi. È quanto è successo ad Alain Frederic, un uomo di 47 anni che, informato dalla sua banca di una grossa cifra ricevuta in eredità, ha venduto tutto. Purtroppo però la banca aveva sbagliato a mettere una virgola sulla cifra e si è ritrovato in una brutta situazione. Alain Frederic è stato tradito dagli zeri da un conto in banca sbagliato. Credeva proprio di avercela fatta, Alain, di aver svoltato per sempre. Così, a 47 anni, aveva venduto tutto, casa, auto, attività. Si era lasciato convincere dal sogno più bello. Assalito da una febbrile euforia, aveva iniziato a fare programmi e ad avverare desideri. Si sentiva sfacciatamente fortunato, Alain. Nuova vita, nuovo tutto. Sembrava una fatina con la bacchetta magica. Per la prima volta sognava in grande, come i milionari veri, quali lui era appena diventato. Raro colpo di fortuna il suo, invidiatissimo da tutti, parenti e amici per primi. Un colpo di fortuna così grande che nemmeno il povero Alain all'inizio riusciva a crederci. Una mattina qualunque di dicembre gli era arrivata una telefonata. Una voce molto gentile di una giovane impiegata del Banco di Valencia, la banca di Alain, lo informava della straordinaria novità. «Congratulazioni, signor Frederic», diceva dall'altra parte la voce. «Suo padre le ha lasciato in eredità un portafoglio titoli del valore di 4,6 milioni di euro depositati in Francia. Sono suoi». Ci impiegò un paio di settimane per crederci, Alain. All'inizio pensava ad uno scherzo, poi ad uno scambio di cognomi, poi ad uno sbaglio della giovane impiegata. Per ben tre volte Alain chiese alla banca di verificare. Poi si arrese alla sublime idea di essere un milionario nuovo di pacca. Era il 2002. E fu allora che iniziò a vendere tutto per la sua nuova vita da ricco. Per prima cosa chiese un prestito di 120.000 euro. Così, tanto per togliersi qualche capriccio covato fin da bambino. Un paio di viaggi, quell'orologio d'oro che aveva visto in una pubblicità, un paio di abiti cuciti su misura, e poi regali alla moglie, un viaggetto per rilassarsi. Ovviamente da milionario Alain non poteva certo correre il rischio di lavorare. Quindi decise di vendere anche l'attività. Era il titolare di una società di giardinaggio, un lavoro che a lui piaceva molto, che faceva con passione. Ma ormai quello era il passato e con quel conto in banca non c'era più posto per rose e ciclamini da piantare. Due mesi dopo il telefono di Alain squillò di nuovo. E questa volta dall'altra parte del telefono non c'era più la signorina dalla voce gentile, ma un dirigente dal tono freddo e distaccato. Per Alain è stato peggio di un tradimento, un balzo dalla sedia e un tonfo giù, per terra. «Ci siamo sbagliati, signor Frederic. Il portafoglio titoli non era di 4,6 milioni di euro, ma di 4.600 euro». Lettera di scuse e fine del discorso. Per un giorno intero Alain rimase in silenzio. Non riusciva neppure a deglutire, a guardarsi intorno. Falsa ogni cosa, una beffa, la macchina nuova, la casa, l'orologio. Tornare alla realtà così di colpo lo fece sentire poverissimo all'improvviso. A 47 anni Alain si sentiva un bambino preso in giro da un mucchio di zeri. Restavano solo rabbia e vergogna. I Frederic hanno passato 7 anni in causa con il Banco di Valencia. La banca ha chiesto alla coppia di restituire il prestito di 120.000 euro richiesto. Alain voleva da loro 230.000 euro per i danni causati dalle decisioni prese. Alla fine la Corte Suprema non ha dato ragione né a uno né all'altro. Si è rifiutata di indennizzare la coppia, ma non ha neppure appoggiato la richiesta della banca di riavere il denaro dato in prestito. In compenso, però, Alain dovrà riconsegnare i beni acquistati con il denaro preso in prestito. E così del sogno non resterà neppure un ricordo lontano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Alain il milionario per sbaglio rovinato da due zeri di Manila Alfano, pubblicato dal Giornale di martedì 4 gennaio. Un muro alto 3 metri e lungo 206 chilometri, sorvegliato da telecamere, che correrebbe sul confine fra la Grecia e la Turchia per fermare l'immigrazione illegale. Un confine che definire caldo è quantomeno eufemistico, dato che da quella zona di terra fra Grecia e Turchia passa circa l'80% degli immigrati clandestini di tutta l'Unione Europea, solo 31.000 nell'ultimo anno. La proposta della protezione civile greca ha suscitato però i timori della diplomazia europea. Un muro, un altro muro da 3 metri di cemento e forse solo una barriera di rete metallica. Da un lato la Grecia e dall'altro la Turchia, l'Europa e l'Asia separate come gli Stati Uniti e il Messico per cercare di fermare l'immigrazione fuori legge. Un ministro junior del governo di Atene, il titolare della protezione civile Christos Papoutsis, ha annunciato l'intenzione di erigere una protezione lunga 206 chilometri sul confine orientale, un colabrodo dove in ottobre sono stati beccati 7.586 clandestini. Non una buona idea, commentano fonti diplomatiche europee, pensando anche alla delicatezza delle relazioni coi turchi. I muri sono una soluzione temporanea, dice un portavoce della Commissione. Il problema impone interventi strutturali. Si storce il naso tanto a Bruxelles quanto ad Ankara, così il governo greco è sotto pressione. Piegato dalla crisi finanziaria, vive un'austerità durissima e in più si trova a essere titolare della porta attraverso cui passa l'80% dei senza documenti che compare nell'Unione Europea. Atene è stata costretta a correggere il tiro, confermando il piano, ma aggiungendo che si parla di 12,5 chilometri nei pressi della città di Orestiada, luogo di frontiera che la mitologia vuole fondato da Oreste, figlio di Agamennone e Clitennestra. Un abitato da 20.000 anime, dove si stima siano sfilati 40.000 clandestini nei primi 10 mesi del 2010. Forse la Grecia si fermerà alla dozzina di chilometri, forse ne farà di più, come dice la stampa locale, o magari seguirà le indicazioni che vengono sussurrate da Bruxelles, rinunciando al muro e scegliendo strategie ritenute più solide. L'Unione Europea chiede ai greci di rafforzare il monitoraggio e affinare il regime di asilo. Le frontiere nazionali greche sono anche dell'Europa. La loro gestione è soggetta al rispetto dei trattati comunitari. Non è una sfida facile per il premier Papandreou. Il flusso globale dei clandestini si è dimostrato una realtà flessibile, rapida a riorientarsi. La stretta del governo italiano, con gli accordi bilaterali firmati da Roma con la Libia, ha sforbiciato gli accessi dallo stivale. Analogo è il fenomeno riscontrato in Spagna e a Malta. Il popolo in cerca di speranza ha così scelto le isole del Dodecaneso e la strada oltre i Dardanelli. Sono in prevalenza afghani, algerini, pakistani, somali e iracheni. Da 2 mesi l'Unione Europea ha preso per mano le autorità elleniche. A novembre sono state inviate 175 guardie di frontiera europee che pattugliano il corso dell'Evros dalla Bulgaria alla foce dell'Egeo. È meno di un uomo per chilometro di confine turco, ma il numero dei clandestini intercettati è già raddoppiato e la missione continua sino al 2 marzo. La Grecia ha bisogno di riforme strutturali solide a lungo termine e di misure per gestire meglio i suoi confini, affrontare i problemi legati ai flussi migratori e creare un sistema dell'asilo solido ed efficiente, dice la Commissione. Ufficialmente non si raccoglie di più nei corridoi, però si fa notare che la condanna più volte espressa dall'Unione Europea per i muri con cui Israele isola i palestinesi perderebbe credibilità se si acconsentisse alla costruzione di strutture analoghe. A dicembre la commissaria agli interni Malmström ha chiesto ad Atene di fare qualcosa per i centri di accoglienza, degradanti, secondo l'ONU. Il muro è una missione di colpa più che una scelta politica, spiega un diplomatico dell'Unione Europea. Pericolosa, aggiunge, per gli effetti sulle relazioni con la Turchia, irritata per lo stop al processo di adesione. Il muro, si fa notare, non conviene a nessuno, non ad Atene e non all'Europa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Atene vuole un muro contro gli immigrati di Marco Zatterin, pubblicato dalla Stampa di martedì 4 gennaio. L'anno delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è già cominciato, se ne parla già da tanto, ma la storia di questo arzillo settantenne è singolare. Cammina da 10 anni per le strade d'Italia per solidarietà o amore per il suo paese e in questi mesi ha deciso di farlo per celebrare l'Unità d'Italia. Cammina da 10 anni, guai a chiamarlo maratoneta. Non corro, cammino, dice Michele Maddalena, classe 1940, professore di radiotecnica in pensione di Formia, provincia di Latina. Cammina per solidarietà e amor patrio. E nella sua ultima lunga passeggiata, iniziata a Trieste il 3 novembre scorso, è incappato in uno spiacevole incidente ad Atripalda, in provincia di Avellino. Un povero disgraziato, dice, che mi ha portato via il carrello, chissà cosa pensava di trovarci, ma se non lo avessero recuperato sarebbe stato un guaio. Lì tiene le sue cose, ma soprattutto i certificati che si fa vidimare dalle autorità di ogni città che raggiunge nel suo viaggio per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e che si concluderà il 17 marzo prossimo a Torino, un viaggio patrocinato dal Ministero per la Difesa e dall'Istituto Nastro Azzurro. Corre da 10 anni Michele Maddalena, dal giorno del suo 60° compleanno. Lo voleva festeggiare in maniera indimenticabile, pensò e ripensò, alla fine l'idea. Sono nato sull'Appia Antica, voglio percorrerla tutta, a piedi. Quasi un gioco. Partì da Brindisi, arrivò a Roma. Una volta alla meta pensò, le mie gambe funzionano bene, perché non metterle a disposizione di qualcosa di buono, della solidarietà, dell'amore per il mio paese? Iniziò così la corsa del prof per Teleton e poi quella tra Latina e Frosinone per raccogliere fondi e donare un cane guida a una ragazza non vedente. E ancora la lunga marcia in occasione del 50° anniversario della strage di Marcinelle, per non dimenticare. Poi arriva il momento di festeggiare i 70 anni. Dall'Appia passa alla penisola intera, celebra il suo compleanno e quello dell'Unità d'Italia. Per ora con 2 amarezze. L'attestato non è stato firmato in 2 regioni, Veneto e Trentino Alto Adige. Se nel secondo caso sembra si sia trattato di un disguido, nel primo Luca Zaia pare non ne abbia voluto proprio sapere. Maddalena allarga le braccia. Questo la dice lunga. Una signora della sua segreteria ha detto addirittura che mi denuncia perché ha utilizzato lo stemma della regione. In nessun'altra parte d'Italia ho ricevuto un trattamento simile. Il camminatore, dopo la disavventura del carrello, è pronto a ripartire, ma non senza un pensiero per quell'uomo di 30 anni che ha tentato di portargli via quel carrello artigianale lasciato fuori da un bar mentre veniva festeggiato da amministratori e cittadini di Atripalda. Lo hanno portato in carcere, racconta. Lo hanno dovuto fare, ma lui ha bisogno di fiducia e di aiuto. Spero incontrerà qualcuno che gli darà sostegno. Io penso che non potrà mai esserci l'Unità d'Italia senza solidarietà e la solidarietà deve essere un fatto quotidiano, non un'occasione, un evento. Maddalena riparte, direzione Basilicata, camminando, come piace a lui, che ripete «Io non corro, vado piano, fotografo quello che incontro, parlo con le persone che incrocio, rifletto e scrivo». Appunti per i suoi libri. L'ultimo è un romanzo, il prossimo sarà un diario. Il diario di una camminata che dura da 10 anni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Cammina da 2 mesi per l'Unità d'Italia, derubato del testimone, di Monica Forlivesi, pubblicato dal Messaggero di mercoledì 5 gennaio.